possiamo cominciare così un po' informalmente oppure dobbiamo aspettare ancora qualcuno? Io direi che non aspettiamo più nessuno, anche perché non vedo un cazzo da qua, per cui... La svolta. Comunque, indipendentemente che dal pubblico ci sia qualcuno che ci conosce o qualcuno che non ci conosce, noi abbiamo scritto un libro che è questo. Cioè, loro due. E siamo qui stasera per raccontarvi un po' di cose in merito. Il libro si chiama Luci e ombre di Google, è edito da Feltrinelli ed è firmato da un gruppo di ricerca che si chiama Ippolita, che ha un sito internet, ippolita.net, dove potete scaricare gratuitamente il volume. È un libro un po' particolare perché è un libro scritto a più mani. Non è il primo per il gruppo Ippolita, che ne ha già scritto un altro, che purtroppo non abbiamo qui questa sera da farvi vedere, ma che potete trovare alla libreria, alla biblioteca del Folletto, che si chiama invece Open Non è Free e che è stato pubblicato dalla casa editrice Leutera nel 2005. Come dicevo, un libro scritto a più mani, quindi un libro che ha un afflato collettivo, dove abbiamo cercato di mettere insieme un po' saperi differenti, per cui c'è chi di noi si occupa principalmente di informatica, c'è invece chi si occupa di filosofia, di politica, di design. Ognuno ha un po' una propria disciplina cardine. E con questi brevi volumi abbiamo cercato di cucire un po' assieme un dialogo tra discipline diverse, che avessero come tema il tema tecnologico, ma che sapessero anche un po' esulare dal tema tecnologico per andare un po' a attraversare anche i territori, appunto, della filosofia, della politica, dell'ergonomia, del design, di quelle che poi appunto sono le specificità di ognuno dei componenti. Un gruppo che nel corso degli anni si è allargato e si è ristretto a seconda un po' del tema che stavamo trattando. Due libri, in realtà, diverse tipologie, di diversi approcci, diversi momenti in cui abbiamo cercato di studiare degli oggetti anche attraverso dei seminari, dei dibattiti interni, attraverso una metodologia che abbiamo cercato di costruirci un po' assieme, quella della scrittura collettiva. L'abbiamo fatto anche attraverso degli strumenti digitali, che sono anche questi disponibili sul sito internet ippolita.net, e che sono, da principio erano dei semplici wiki e che poi sono diventati sempre più complessi e sempre più vicini, insomma, alle necessità e desideri di scrittura del gruppo. Per cui in questo caso potete trovare sul sito un software che si chiama Riso, che è stato scritto da noi e che è una sorta di wiki evoluto che contiene anche una chat interna, una serie di, diciamo, riferimenti leggermente diversi e che comunque sempre è molto semplice da usare. Per cui vi invitiamo a scaricare, oltre che il libro, anche il software. Questa sera siamo qui insieme anche a un'altra persona che non è parte del gruppo, si chiama Vecna, che è un abiatense e che è uno di quei soggetti che si può definire molto affine a quello che è il gruppo di Ippolita, perché anche lui è un po' attraversato, diciamo, quegli ambiti underground dove è cresciuta una certa consapevolezza critica delle tecnologie e ha saputo diffondersi un po' anche a coloro che non erano prettamente dei tecnici, ma che erano persone che avevano così voglia di dotarsi degli strumenti minimi di difesa digitale o che semplicemente erano curiosi di quella che è solita definirsi la rivoluzione, insomma, digitale. Per cui ultimamente nelle presentazioni ci sta un po' seguendo, facendo un po' l'eminenza grigia, facendo un po' il lato oscuro di Google, per l'appunto, cioè è quel personaggio che solleva, che alza il livello della paranoia, laddove noi cerchiamo di distendere gli animi e dire che in fondo, insomma, Google non è così terribile come lo dipingiamo nel libro. Ecco che interviene Vecna per dirci: no, è assolutamente molto peggio di quello che potete immaginare. E quindi, come dire, cosa faccio? Introduco un po' l'argomento, vogliamo passare Alla scura. No, vediamo. ad altro. Quanto duro cosa passeresti? Io ho bisogno di un accendino, intanto. Grazie. Se volete, io vado un po' avanti, voi quando vi sentite pronti potete intervenire. Fantastico, potrebbero Ok. volere ore. Allora, il libretto Ottimo, è buonasera, piano piano. simpatico perché Sì. in parte è anche un libro di facile lettura. Non è solo un libro di facile lettura, ma come dire, può essere approcciato anche da chi, come dire, è un navigatore disinvolto, ma non particolarmente smaliziato, per cui a chi utilizza internet non come strumento di lavoro, ma come di divertimento piuttosto che come oggetto di ricerca rispetto a un obiettivo molto ravvicinato. Perché chiunque oggi si trova di fronte alla navigazione su internet a dover fare i conti con Google. Google è un motore di ricerca e non è l'unico, però è sicuramente quello che ha la maggiore voce in capitolo tra i motori di ricerca. Quello che ci è sembrato interessante è che Google diventa sempre più comportamento, ossia che la pagina principale di Google viene settata generalmente sul browser di navigazione come la prima pagina con cui si comincia una ricerca. Per cui sono sempre di meno le persone che partono da Repubblica, il Corriere della Sera, piuttosto che dal sito internet del proprio gruppo di amici di riferimento, ma che invece parte da Google. Non per forza personalizzandosi la pagina così come Google consente, ma anche semplicemente come barra di ricerca, come campo bianco delle keyword per iniziare la propria navigazione. Quindi la prima domanda che ci siamo fatte è stata perché Google diventa comportamento, perché laddove potremmo ricordarci la nota che abbiamo segnato a piè pagina in un libro, il post-it che abbiamo appiccicato sul frigorifero, piuttosto che la collezione delle garzantine che abbiamo a casa, perché non usiamo più tutte queste cose, ma andiamo direttamente sul campo bianco di Google a inserire la parola chiave che ci dia una risposta? Ebbene, probabilmente perché siamo diventati molto pigri, probabilmente perché quella che appunto si definisce la rivoluzione informatica da una parte ci stimola e ci fa pensare a un orizzonte immaginifico molto ampio, dall'altra impigrisce un po' il nostro piano di desideri, la nostra, come dire, voglia di curiosare un po' in quello che è il mare magnum della rete di internet. E quindi ci siamo chiesti: perché Google è vincente? Perché è il motore di ricerca che si è imposto negli anni? Perché non è l'unico. Di fatto, come dire, nel primo capitolo trovate una cronistoria molto breve di quella che è, come dire, l'evoluzione dei motori di ricerca. Cosa c'era prima di Google? Qualcuno si ricorda certamente Yahoo, ma magari qualcuno si ricorda anche di Arianna, perché magari naviga dal 99-98 e quindi si ricorda anche di altri motori di ricerca che sono andati via via sparendo. Quando annoio ditemelo, perché io sono un po' macchinetta, quindi. Tu, è bene, ci sta fare qualcosa No, che io sto semplicemente seguendo, come dire, una linea logica rispetto a quella che è stata la costruzione del libro, per cui insomma, perché Google si è imposto? E per arrivare a rispondere a questa domanda non si può che iniziare un po' dalla storia dei motori di ricerca, per cui dalla storia dell'evoluzione del web. E nelle prime pagine trovate questo tipo di risposte, per cui trovate un po' quelli che sono gli altri motori di ricerca, come sono nati, che tipo di struttura tecnologica avevano alle spalle, perché erano meno interessanti di Google. In realtà, molto semplicemente, come dire, questi motori erano malati di quelli che noi abbiamo definito la portalite, cioè una malattia contagiosa, bella la portalite. contagiosa che semplicemente ci faceva trovare davanti a dei grandi portali, cioè una pagina web che aveva tantissime informazioni, tra cui banner pubblicitari, link ad altro, centinaia di di porte che si aprivano verso altri luoghi, oppure luoghi, come dire, strade chiuse, che però sembravano molto interessanti. Google fa esattamente l'opposto, cioè non ci propone tante informazioni, ma ci propone una pagina assolutamente minimale, bianca, che contiene nella parte centrale la barra delle keyword che già ho menzionato, e che quindi, come dire, centra la nostra attenzione, fa sì che noi non siamo distratti da mille cose che si muovono, banner che sberluccicano, ma concentra la nostra attenzione sull'obiettivo della ricerca. E questo senz'altro è stato uno degli escamotage vincenti per Google. Sì, diciamo che alla fine ciò che inizialmente ci ha attirato a Google sono state fondamentalmente due cose. La prima è appunto l'assenza di pubblicità diretta. Infatti l'interfaccia di Google è sempre stata particolarmente sobria, nella home page non ci sono pubblicità, e se ci sono delle pubblicità vengono segnalate non attraverso delle immagini ma attraverso dei box ben dichiarati, con eventualmente colori o comunque dei formati grafici che sono facilmente identificabili. Dall'altra parte, un altro elemento vincente è stata la qualità dell'algoritmo. Ovvero, su Google si trovano le informazioni che su altri motori di ricerca non si trovano, o che comunque non si trovano allo stesso livello. Nel nostro libro affrontiamo poi c'è un intero capitolo dedicato a che cosa vuol dire l'algoritmo segreto di Google, di cosa tratta, e in particolare andiamo a analizzare il fatto che non è poi così tanto segreto, e si basa su un concetto di valore all'interno di un network di informazioni. Quindi che una pagina assume un valore in base al numero di link provenienti da altre pagine. Ovvero, se io linko qualcuno e tante persone linkano quello stesso qualcuno, quel qualcuno evidentemente è molto importante. Questo è appunto definito l'algoritmo del page ranking, e nel quinto capitolo noi affrontiamo tutta una serie di problematiche legate a qual è il significato, come avere una pagina, e per quale motivo questo è particolarmente simile a un qualcosa legato alla nostra società, ovvero il fatto che una persona può essere riconosciuta perché ha una serie di conoscenze, oppure tante persone parlano di questa persona. Il problema principale, che poi dopo andiamo a affrontare, no, all'interno di Google, è che l'idea di valutare le notizie in base al numero di link entranti è stato poi spostato alle persone, e che quindi Google, da un certo punto in avanti, ha cercato di capire chi erano i propri utenti e come questa cosa poteva avere un valore dal punto di vista commerciale. Ovvero, se io so chi sei tu e so quali ricerche fai, riesco a piazzarti la pubblicità giusta, e quindi non ho bisogno di riempire l'interfaccia di pubblicità, ma mi basta metterti due o tre link pubblicitari in base alla ricerca che tu stai facendo, oppure a chi sei tu, quali sono le ricerche che mediamente fai. Inizialmente Google ha iniziato a monitorare le persone utilizzando uno strumento tecnologico abbastanza vecchio chiamato i cookie, ovvero memorizzando all'interno del nostro browser un'informazione, in modo tale che quando noi ritornavamo su Google quell'informazione veniva restituita a Google, e quindi Google ci riconosceva di nuovo, e quindi creandosi uno storico. Dopodiché, attraverso innumerevoli servizi che vanno dall'email piuttosto che strumenti per condividere il calendario, strumenti per la telefonia, strumenti per le mappe, quindi sapere dove noi abitiamo oppure quali sono gli ambienti che più visitiamo, perché ci offre uno strumento per la ricerca all'interno di un contesto geografico, Google è riuscito a capire bene non soltanto chi siamo noi e quali ricerche facciamo, ma chi sono i nostri amici. Perché nel momento in cui noi utilizziamo un servizio come Gmail, tutte le volte che scriviamo a qualcuno, questo qualcuno magari ha un account Gmail, e quindi Google è capace di fare questo collegamento. Ma anche sapere dove noi ci troviamo dal punto di vista geografico e quali sono le zone che noi frequentiamo. Tutto ciò alimenta un meccanismo che fino ad ora è stato utilizzato tendenzialmente per ragioni economiche. Quello che noi poi cerchiamo di approfondire che implicazioni può avere dal punto di vista politico-filosofico tutto questo controllo del singolo individuo, fino poi a trovare delle possibili vie di fuga. A questo punto passo la parola, perché mi sono stancato. Posso, prima di procedere così verticale, io farei così un intervento di alleggerimento. Ok, sì. Scusate. È stato un po' verticale. No, beh, è importante, nel senso che è importante anche girare poco attorno all'oggetto e centrare un po' quelli che sono i problemi. E Baku, come dire, riesce bene in questa cosa, perché essenzialmente Google ha saputo sfruttare in maniera eccellente il nostro bisogno di semplicità, così che noi ci siamo nel tempo affidati a un qualcosa che sembrava innocuo, fornendogli un'enorme mole di dati. Questa mole di dati non viene acquisita perché noi gli diciamo chi siamo, ma viene acquisita attraverso lo storico della nostra navigazione, attraverso quella che è la mappatura dei nostri piaceri o dei nostri interessi o dei nostri riferimenti professionali sul web. Per cui Google si impone come una membrana che filtra tutti i nostri processi di navigazione. La domanda che sorge immediatamente spontanea è: ma come cazzo fa a guadagnare Google? Cioè, da dove prende i soldi per fornirci un servizio assolutamente gratuito, ottimo, che ci risponde a tale velocità? La risposta è: Google guadagna attraverso la pubblicità, e questo è banale, perché ognuno di voi avrà notato che a destra, quando voi inserite la parola albero, mela, pinco pallo sul campo delle keyword, la stampata successiva, quello che vi si propone è un lungo listato di risposte sulla colonna di sinistra, in alto viene mantenuta la barra, sulla destra compaiono dei box. E ultimamente, diciamo, l'ultimo trend è anche che tra i primi risultati siano evidenziati in verdino, in maniera un attimino diversa dai risultati successivi. Ebbene, generalmente i primi risultati e i risultati sulla destra sono risultati di tipo pubblicitario, ossia le persone che mettono la pubblicità che poi vi compare sulla ricerca sono persone che hanno pagato Google per far sì che voi otteniate quel risultato lì. La questione è che se io mi occupo, e la faccio molto breve di modo che poi si possa procedere più speditamente, sono un amante di equitazione e faccio una ricerca molto specifica sull'equitazione, la pubblicità che mi comparirà sulla destra sarà inerente alla ricerca che io ho fatto. E questa cosa è una cosa estremamente innovativa. Per quanto sia defilata e sia una cosa che non, come dire, che non ci alletta immediatamente lo sguardo, perché non è un pop-up che ci si apre in faccia e ci si stampa davanti, è un qualcosa a cui possiamo prestare attenzione solo se vogliamo prestarci attenzione, altrimenti rimane sulla destra e non interferisce con quella che è la nostra navigazione. Però quella cosa così piccola e così defilata in realtà porta a Google centinaia di migliaia di dollari e fa sì che possa continuare a fare il proprio servizio, il proprio lavoro rispetto a, come dire, la funzione di motore di ricerca. Ebbene, Google guadagna così. Ma come fa Google a fornirci esattamente la pubblicità interessante, inerente, necessaria alla nostra ricerca? Perché, come si diceva, Google ha una mappatura generale di quella che è la nostra navigazione, perché in parte attraverso l'uso dei cookie che ha descritto Baku, Google riesce a riconoscerci come utenti. Quando io mi loggo e la mia navigazione verte principalmente su l'equitazione e l'hockey su ghiaccio e altre X cose, qualunque, Google riesce a identificare un range minimo entro il quale io sarò identificata come una tipologia di utente. Sulla base di questo, Google mi fornisce la pubblicità. Questi sono, come dire, un primo principio di filtraggio delle informazioni, e in questo caso fatto sulle questioni pubblicitarie. Vero è che Google utilizza dei filtri anche per rispondere alla mia ricerca in maniera mirata. Cioè, se io sono italiana e inserisco nel campo delle parole chiavi una parola italiana, quello è senz'altro un altro filtro importante che mi permette di concentrare la navigazione sulle pagine provenienti da Italia, sulle pagine in italiano o su quelle che hanno attinenza al luogo geografico da cui io arrivo. Per cui Google essenzialmente funziona attraverso dei filtri, sia dove Google guadagna, sia dove deve fornirmi una risposta il più precisa possibile, Google come dire, stratifica, utilizza dei filtri per arrivare a precisare sempre più ottimamente il risultato della mia ricerca e al contempo la pubblicità che mi fornisce. Ora, automatico, può essere che qualcuno di voi pensi, sapendo dov'è la pubblicità, io non la guardo, non mi interessa, oppure dice non sono influenzabile, di conseguenza che ci sia o che non ci sia, chi se ne frega. Questo è vero nel momento in cui si stanno facendo delle ricerche o delle consultazioni online su argomenti per i quali siamo esperti. Se siamo esperti, di fatto noi sappiamo cosa stiamo cercando, sappiamo cosa cercare, se non lo troviamo sappiamo rimettere a posto la query, quando ci vengono fuori suggerimenti possono essere più o meno inerenti, ma se noi siamo esperti in un certo settore non faremo acquisti online o non ci faremo in qualche modo attirare. Il problema sta che nel fatto che noi siamo esperti in una percentuale minima di cose su tutte quelle che in verità cerchiamo durante la nostra vita da navigatori. Questo qui ci espone quindi a una finestra che tutta la parte di ricerche o di conoscenze che apprendiamo da internet, virtualmente quindi da Google, perché praticamente per esempio facesse internet si passa quasi sempre da Google, per una questa maggior parte di conoscenze dipendiamo da lui e in questo momento lì saremo per lo più spiazzati dalla ricerca di nuove informazioni. E in quel caso lì è dove la pubblicità effettivamente ha effetto, perché dove c'è l'utente che sta cercando la risposta a quello che sta facendo e clicca, effettivamente riesce a sfruttare la pubblicità. Questo potrebbe anche essere bello come sistema di marketing del futuro, il fatto che tu sai che è una persona che ha bisogno di questa cosa e gliela vai a dire direttamente a lui e non disturbi tutti gli altri. Il problema si pone quando non si parla solamente di pubblicità, ma quando proprio l'informazione come dettaglio, descrizione di un fatto che io sceglierò, non potrò sceglierlo in modo arbitrario, ma sarà in qualche modo influenzato da Google. È stato fatto un grafico per cui si vede chiaramente che il primo link è quello che mi è cliccato da tutti, il secondo link da un terzo di quelli che l'hanno visto, dal terzo link in poi da un decimo o anche meno. Di conseguenza, solamente i primi due link si può presupporre che saranno le informazioni che la massa riceverà. Una massa già, cioè una persona che è già esperta in un settore può essere che ignori cercandone altri, ma una persona che è ignorante di un'argomentazione o di un argomento, il primo link che troverà o il secondo link che ritroverà riprenderà come riferimento di questo argomento e inizierà a farsi la sua nuova conoscenza. Di conseguenza la domanda che viene fatta è: chi è che va al primo posto? Chi è che va al secondo posto? Davvero il risultato che è più attinente alla mia ricerca o qualcosa che può essere influenzato? E il fatto che io venga influenzato quando apprendo un nuovo argomento, questo qua mi darà dei problemi in seguito quando vedrò delle versioni differenti o sarà tutto indifferente? A questo punto mi verrebbe da fare proprio una precisazione, perché sul dubbio e quindi un po' sulla continuazione dell'ascesa verticale mi fermo un momento a riflettere e riprendo anche quello che diceva Baku prima e quello che in parte sottintendeva la domanda di Vecna, cioè perché un risultato viene prima di un altro. Però ti perdono. Cioè andiamo un po' a capire anche qual è il background culturale di questa grande impresa che è Google. Allora, come fa Google a dire che un risultato è più importante di un altro? Cioè, qual è la scala di valori, la gerarchia attraverso cui un risultato mi compare per primo oppure per secondo? Baku in parte rispondeva, e io, come dire, ve la riporto con una battuta. Più saranno conosciuti e più saranno famosi. Questo è un po' anche l'imperativo, come dire, del nostro tempo. Se ci immaginiamo, come dire, che cazzo ne so, Hollywood o il nostro piccolo sistema di Vallettopoli, ecco che, come dire, la questione ci salta immediatamente all'occhio. Più saranno conosciuti, più saranno famosi. Non importa se quello che fanno è di valore, non importa se quello che fanno è interessante, è importante che la gente ne parli. In questo caso per Google questa cosa si valuta attraverso il numero dei link. Più una cosa è linkata, più una cosa è famosa e quindi più una cosa è giusta. Dal punto di vista politico e filosofico vi rendete ben conto che questa roba non è esattamente una cosa più che giusta, è vera. Sì, è vera, per cui c'è addirittura, come dire, una pretesa di verità. Perché rispetto a quello che è, come dire, il mare magnum, appunto, che si diceva del web. Un po' come se Google cioè Google avesse la pretesa di andare a illuminare tutte le zone di internet, come se, come dire, internet fosse un qualcosa di totalmente trasparente, totalmente mappabile, e di fornirvi immediatamente la risposta corretta in base al numero di link che un sito possiede. Per cui io mi occupo sì di cavalli e segugi, però è vero è che siccome sono una matrice di questa materia, una cultrice di questa materia, non mi interesserà tanto sapere qual è il sito cardine di cavalli e segugi nel mondo, perché ben lo so già, ma invece magari andare a cercare tutti quei rivoli di informazione attorno all'oggetto che costituiscono, come dire, il sale vero del sapere attorno alla questione dei cavalli e segugi. Ma Google mi fornisce principalmente, come dire, il sito mainstream, per così dire, mi fornisce tra i primissimi risultati quello che secondo lui costituisce la verità assoluta in un mondo che egli o esso ritiene chiuso. Ovvero sia, perché Google arriva, qui faccio una piccola digressione. Sì, se vuoi mi aggancio quando vuoi. Faccio una piccola digressione così giusto. Vai. Per... Allora, perché Google fa questo ragionamento qua? Cioè, da dove cazzo gli viene di pensare che una roba che è fortemente connessa in un mondo apparentemente chiuso, questa roba risponda al criterio di verità e di oggettività? Perché questi due signorini di Mountain View, come si chiamano? Larry Page e Sergey Brin. Tra l'altro è interessante sapere che Page ha anche inventato il Page Ranking, però questo magari... Sì. Il page ranking è esattamente quel meccanismo che ti dice che un sito vale di più di un altro, si chiama page rank, punteggio, esatto. Perché questi signori vengono da un'università che si chiama Stanford, che è un'università famosa per essere un incubatore di azienda di grido in America, storicamente è data come tale ed è assolutamente realistico pensarlo. Il fatto è che la cultura di riferimento di queste persone è l'accademia, è l'università per l'appunto, e loro hanno applicato quello che è il sistema della biblioteconomia, quello che è il sistema dei riferimenti accademici al web. Cioè in una pubblicazione nell'alveo dell'accademia, delle pubblicazioni scientifiche in particolare, una pubblicazione acquista valore se questa pubblicazione è citata da altri. Esiste un sistema di citazioni reciproche nel mondo della scienza che costituisce, come dire, la piramide dell'accademia, la piramide della scienza. È basata sul fatto che esistono delle relazioni, delle connessioni tra scienziati. Cioè se io faccio una scoperta e questa scoperta viene ritenuta di interesse da parte dei miei colleghi, ecco che i miei colleghi la citeranno in altrettante riviste scientifiche, pamphlet, report e quant'altro. Sulla base di questa, che è definita scienza, biblioteconomia nella fattispecie, cioè è una cosa enorme, gigantesca, noi nel libro la affrontiamo molto bene, poi ci sono una serie di link anche per chi volesse andarsela un po' a vedere, ed è una cosa che, come dire, è assolutamente illuminista, che ha le proprie radici storiche in un contesto politico che conosciamo anche abbastanza bene, e ha poi un suo corrispettivo direttamente online, per cui la verità oggettiva della scienza che ci viene offerta da Google metodologicamente arriva da questo. E quindi, come dire, per chi è abituato a pensare che la verità possa essere qualcosa di assolutamente soggettivo e parziale, politicamente questa cosa, come dire, regge poco. Cioè può andar bene se sto cercando via Mazzini 12, in quel caso, come dire, i nodi fortemente connessi, il sistema di link, per cui certamente via Mazzini 12 sarà quella, può anche andar bene, ma laddove si sta parlando di qualunque altro argomento che abbia uno scoglio minimo, che subisca uno scoglio minimo dal punto di vista semantico o filosofico, questa roba non regge assolutamente. La questione qual è? Che Google diventa comportamento e che quindi fa passare questo tipo di proiezione di taglio culturale su uno spettro di massa che è gigantesco. per cui se la gente, se come dire uno si occupa di accoppiamento dei crostacei, piuttosto che se uno si vuole informare di quelli che sono i musicisti del XXI secolo, avrà certamente, come dire, terrà certamente in considerazione la proposta di Google come una proposta autorevole. Ma non per questo quella proposta risulterà essere autorevole rispetto a quello che è il soggetto che interroga e che magari invece, come dire, dovrebbe poter filtrare le proprie risposte su uno spettro che è decisamente più spurio. Questo era per fare una breve digressione semantico-filosofica, ma torniamo pure su un livello tecnico. Dove eravamo rimasti? Sì, nel senso che a un certo punto avevamo incominciato a vedere come Google aveva trasposto il discorso del page ranking, quindi poter dare un valore a ogni singola pagina, a dare un valore alle singole persone che utilizzano i servizi. E quindi a capire quali sono gli elementi minimi per capire quale relazione fra le diverse persone che utilizzano i diversi servizi. Non a caso uno dei primi servizi che Google ha incominciato a offrire dopo il motore di ricerca è stata l'email, perché con l'email è facile capire chi parla con chi e magari anche di cosa. Gmail è stato il servizio email di Google, lo è ancora, e cerca di crearsi sempre più utenti grazie a una quantità di spazio offerto improponibile rispetto a qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica. Attualmente mi sembra che offra 2,9 giga, quasi 3 giga di casella di posta. Beh, certamente se io, come dire, sto in un paesino della Sardegna, come dire, di questi fottuti giga, 2 giga e 9 me ne faccio bene un cazzo. Vabbè, perché se non mi arriva manco la DSL, perché come dire, questo vita. Funziona se tu sei in una grande città e sei iperconnesse, cioè Fastweb. Ma su cosa si basa? Scusa. Per quale motivo Google in qualche modo ha voluto cercare di comprendere la relazione fra le diverse persone? Per un motivo beccamente economico. Se tu sei interessato a equini, probabilmente anche i tuoi amici o comunque le persone che frequenti nel giro più ristretto. Ma diciamo essere, pure la tua comunità. Possono essere interessati a questo argomento. O tendenzialmente comunque tu sarai interessato a una maggior parte degli argomenti che interessano gli altri elementi della tua comunità. La tua comunità come faccio a percepirla? Attraverso le tue comunicazioni. E quindi il primo strumento di comunicazione esistente su internet tra le diverse persone è il servizio email, anche dal punto di vista pseudostorico. Quindi il fatto che io possa sapere, non tanto, possa sapere a chi tu mandi l'email e da quale persone tu ricevi l'email, e soprattutto che cosa contengono queste email, perché comunque il testo della tua email passa sui server di Google, se tu sei o il mittente o il destinatario, questa cosa permette di comprendere di che argomenti state parlando e quali sono le relazioni personali. Dopodiché... O politiche. Dopodiché questo è sfruttato sotto diversi aspetti, o per le pubblicità mirate, per i servizi di ricerca, ma anche per le pubblicità mirate nella casella di posta. Non so se voi avete un account su Gmail, però capita spesso di ricevere delle pubblicità inerenti agli argomenti che si stanno con cui si sta discutendo con i propri amici o comunque persone a cui si scrive. E questa è una cosa abbastanza frequente, ovvero il fatto che si riceve della pubblicità in base a ciò che io sto scrivendo. Quindi c'è qualcosa che capisce con chi sto parlando e di che cosa sto parlando. E quindi è più facile per me eventualmente cliccare su un banner pubblicitario se, non lo so, mi interessa il mondo equino e mi propongo una fantastica sella nuova per equino. Dopodiché tutti gli altri servizi, se andiamo a ben vedere, sono tutti quanti abbastanza orientati al comprendere il network che gira attorno alla persona. Quindi dal punto di vista geografico per quello che riguarda le mappe, dal punto di vista degli argomenti video con l'acquisto di YouTube, quindi quando io vado a vedermi un video oppure lo uploado. Forse non tutti lo sanno, però Google ha recentemente acquisito YouTube, per cui YouTube è di proprietà di Google in questo momento. E la cosa bella è che in quel caso tutto il valore di YouTube non è stato dovuto alla sua tecnologia, che sotto sotto non è nulla di più quello che avessero già con Google Video, ma al parco utenti. E qui si capisce già che la moneta del futuro non sarà tanto la tecnologia quanto più la quantità di utenti che stai portando. Esatto. Più saranno conosciuti e più saranno famosi. Così come adesso gli ultimi servizi che Google sta offrendo, cioè dei veri e propri software per creare informazione. Cioè, mentre prima era interessante sapere l'informazione che andavi a cercare, dopodiché è diventata l'informazione che tu andavi a muovere attraverso l'email, adesso è importante sapere anche il processo di formazione, di creazione dell'informazione. E quindi sono stati creati sistemi tipo di videoscrittura, un foglio elettronico e un calendario condiviso, che sono degli strumenti via web. Non so se lo sapete, ma se andate su labs.google.com trovate questi strumenti, che attualmente vanno anche di moda fra le piccole aziende, le medie piccole aziende, perché sono offerte in maniera gratuita. Comunque, al posto avere Word, c'ha al posto avere Word, senza pagare licenza, senza pagare niente, ed è praticamente un micro Word. Word è il programma della Microsoft che parte della suite di Office di videoscrittura via web. Faccio un esempio proprio stupidissimo che riguarda me in prima persona, che magari riguarda anche alcuni di voi. Non so, tipo, io uso Linux e quindi mi tocca di usare dei software super pacco tipo OpenOffice o tipo AbiWord, ok? Cioè, generalmente uso Gedit, però se devo fare un grassetto mi tocca di usare, quando mi va bene, AbiWord e quando mi va male OpenOffice. Il problema è che OpenOffice, quando io lo spedisco ai miei capi e ho fatto un elenco puntato, non mi mantiene l'elenco puntato perché loro usano soltanto fucking Microsoft. Allora cosa faccio? Copio tutto quello che ho scritto sul mio bel Gedit con l'elenco puntato, sul mio AbiWord con l'elenco puntato, vado su il servizio che mi offre Google, che in particolare si chiama Writely, che è questo, praticamente è un Word via web, glielo schiaffo sopra e lui mi garantisce compatibilità piena rispetto a quelli che sono tutti i sistemi. È vero è che se io non mi ricordo di dirgli elimina documento, lui si tiene tutto il mio cazzo di documento poi, e non è che realmente. E poi va, chissà se lo fa, perché magari se lo tiene ugualmente, nessuno mi garantisce che se gli dico elimina documento, lui mi elimina il documento. Semplicemente, come dire, siccome mi trovo in una difficoltà tecnica, sono, come dire, obbligata a usare questo strumento di ipercompatibilità con il resto del mondo e quindi, come dire, a dargli una serie di cose che sono, se va bene, il documento che ho scritto pubblico e che verrà pubblicato dai miei capi perché è un documento pubblico, ma se va male è la lettera che ho scritto ai miei amici di Cavalli e Segugi, dove, come dire, parliamo dell'ultimo ritrovato delle selle all'inglese che ci permettono di andare al trotto in un certo modo. E quindi quella può essere un'informazione interessante per Google, perché è un'informazione specifica rispetto a non solo il mio interesse personale, ma un qualcosa che potrebbe coinvolgere la mia comunità intera. Adesso aumentiamo un po' il livello di paranoia, perché così un po'. Allora, immaginiamo quindi adesso che Google controlla ciò che noi ricerchiamo, con chi comunichiamo a livello di mail, che aspetta, questo ci arrivo fra un po'. Che cosa scriviamo sotto forma di documento Word, di videoscrittura, i nostri grafici dal punto di vista di foglio elettronico, che magari poi dopo inviamo sulla posta di Gmail. Dopodiché arriviamo a un controllo della voce tipo Gtalk, che è più o meno una specie di Skype, che per fortuna non ha avuto particolarmente successo. Andiamo a monitorare anche quali sono le zone che tu vuoi vedere dal punto di vista geografico, perché magari le vai a cercare. Ehi, quella è casa mia! Avete meno con lo zoom da 10. Ehi, aspetta, quello è il mio centro qua sociale. Questo qua fa parte dei miei test. Qualcuno di voi ha usato Google Earth? Sì. Ok, cos'è la prima cosa che avete cercato su Google Earth? La primissima cosa che avete cercato? Casa mia. E la seconda? No, ma a parte tutti qua, la primissima. Se io fossi stato il programmatore di Google destinato a fare statistiche sulle ricerche fatte su Google Earth, perché esiste questa figura chiaramente, avrei detto ok, la prima cosa che le persone cercano è casa loro, subito proprio. E a questo punto ho un identificativo di chi sei, e dove abiti. Perché magari tu vai a cercarti un indirizzo nella tua città e quindi so che sei, non lo so, da Abbiategrasso a Milano, a Torino, dove sei. Ma dove abiti? Lo scopro soltanto con Google Earth, perché tutti vogliono vedere la propria casa dall'alto. Aspetta, un altro dettaglio bello è che non è come tenere nascosti i propri dati, per cui ora magari ho una residenza da una parte, domicilio da un altro, in realtà vivo da una terza parte. Se tu vai su Google Earth e cerchi un posto, è il posto dove tu stai, dove ti interessa, allo stesso modo le tue ricerche, può essere che tu le fai con un nome anonimo, però se io sono l'unica persona che ricerca di erboristeria, di equitazione, di programmazione, quante persone sanno che hanno questi requisiti? una, due, fatto sta che sempre starai stringendo il campo non tanto su Claudio, ma su queste persone, questi interessi. Poi come si chiami? È rilevante, prima o poi magari lo scriverà lui o qualcuno gli manderà un'email e dice ciao Claudio. Sì, c'è da fare una breve distinzione su questo, proprio brevissima, perché so che te la dimenticherai, cioè che esiste una differenza tra il proprio sé reale e il proprio alter ego digitale. Cioè che non importa che io sia Anna Iraia sulla rete, io posso anche chiamarmi Rebecca Caracciolo, posso anche chiamarmi Vittoria Rocca, e che magari è il nome della mail che mi sono fatta su Libero. Non importa che io abbia un altro avatar. La questione è che quella cazzo di Vittoria Rocca, che quella Rebecca Caracciolo, ha comunque un suo interesse, ha comunque un suo range di cose, ha comunque un suo storico e una sua comunità alla quale fa riferimento. Per cui che anche io non gli abbia dato i miei dati, io comunque costituisco un cazzo di alter ego digitale. Io comunque sono una persona che agisce sulla rete, che ha una propria storia personale, che ha dei propri interessi, indipendentemente dal fatto che io gli abbia dato il mio codice fiscale oppure no. Per cui sono reale, esattamente come lo sono qui adesso e che mi chiamano Airaia. Bene, tutto ciò potrebbe essere anche poco importante dal nostro punto di vista se tutto quanto si trasformasse né più né meno che in qualche riga di pubblicità nella nostra ricerca o in qualche email che riceviamo su Gmail o poco altro. Il problema è molto più complesso. Il problema sta nel fatto che attualmente il business principale che fanno tutte le società che si occupano di, in generale, quello che viene definito Web 2.0, non che Google faccia parte di questa società, però tutte le altre tendenzialmente, consiste nel vendere informazione sugli utenti. YouTube può vendere chi pubblica cosa e quante persone sono interessate a quell'argomento. Skype può vendere chi comunica e con chi. Non lo so, Flickr, è un po' più complesso quello. Flickr può comunicare chi uploada le foto, quale categorie di foto esistono e quali utenti sono interessati a quali foto. No, però diciamolo anche che questa cosa non è solo per gli utenti medi, come possiamo essere noi, ma che anche sui programmatori, gli sviluppatori e i developers. Cioè, il fatto è che, come dire, loro hanno la possibilità di mappare dall'utente medio all'utente evoluto, lo sviluppatore e il programmatore, perché la rete pullula di luoghi in cui tu, sviluppatore, puoi mettere i tuoi codici e le tue robe per, come dire, renderti visibile online, gratuitamente, dove puoi addirittura avere, come dire, una compiler farm dove far girare i tuoi cazzo di programmi, ed è tutto assolutamente gratis. La questione è che poi questa gente, in quel caso io citavo Surforge, Fresh Meat, che cazzo ne so, cioè comunque avrà delle statistiche, potrà fare delle statistiche su quelle centinaia di ragazzi, uomini o quello che cazzo è, che sviluppano e fanno codice, e che chiaramente è un piatto super ricco. Ti offro una cosa gratis, ma di fatto, come dire, non è proprio così gratis quello che ti sto offrendo. C'è un qualcosa che tu dai in cambio, solo che la moneta è un alter ego virtuale del quale noi, come dire, se non siamo proprio a carelli, ce ne occupiamo un po' poco. Cioè, magari ce ne occupiamo perché non vogliamo, perché siamo attenti alla nostra, al nostro bancomat, e sappiamo che ogni volta che facciamo la spesa con la fida di card siamo mappati, ma poi quando siamo su internet alle volte non è che ci diamo troppa retta a questo fatto di avere un alter ego digitale. Anche perché la percezione che si può avere è quella del sono su un sito dove ho dei dati falsi, di conseguenza non ho dato i miei dati. Però davvero quello che si è scoperto adesso è che a furia di espandere i tipi di servizi che sempre più raccolgono più utenti, a furia di mettere banner in siti che non c'entra con Google, quindi anche se tu stai navigando su un altro percorso su altri siti e passi in un banner che c'è, un banner di Google, comunque sia viene riconosciuto il tuo utente Google, che dice io sono passato di qua. Magari non passi su un sito che c'ha un banner, ma c'ha un altro servizio di Google che si chiama Analytics, che non vedete neppure, ma navigate e Google lo sa. In qualche modo, il fatto che gli utenti stanno diventando i portamoneta è perché sono quello che fanno realmente gli utenti che importa sapere. Cosa importa l'opinione pubblica, quali sono le cose più interessanti, quelle meno, quale evento ha sconvolto un certo interesse, quale notizia ha fatto aumentare una ricerca di questo tipo di keyword, quale tipo di pubblicità o quale, cioè studiare proprio come anche come la massa risponde agli stimoli informativi esterni. Dicesi ingegneria sociale. Sì, però fatta da delle macchine diventa molto peggio quella fatta da persone. La persona che fa ingegneria sociale, quello che ti parla venendo di un frigorifero, capisce che tu è appunto debole, stai a calcarci sopra, tu alla fine compri questo frigorifero. Però quando sei inconsapevole diventa un po' più complicata la faccenda. Nel senso, adesso si fa un gran parlare, no, di web 2.0, di social networking, di tutte queste cacate, ma tipo blogosfera e tutte queste menate qua. Cioè, il valore aggiunto di tutta questa faccenda, che poi magari vi vendono in mille salse, è il fatto essenzialmente delle relazioni tra le persone, quello che noi abbiamo sempre chiamato in politica il valore aggiunto del bene relazionale, quello che abbiamo imparato a conoscere come potenza della rete, della cooperazione in ambito politico. La cosa interessante dell'informatica è che traduce tutto questo in materia. Quello che un marxista fa fatica a capire è che la materia è energia, perché un materialista, per quanto tale, fa sempre molta fatica a immaginarsi che la materia sia energia, questo perché la fisica in generale ci sembra qualcosa di oscuro. Dopodiché però poi nell'informatica quella strana materia che si chiama relazione improvvisamente diventa qualcosa di concreto, improvvisamente non è solo una vibes, un flusso di relazioni per cui ci sentiamo in un gruppo di affinità, ma diventa una materia concreta, diventa un qualcosa su cui qualcuno, come dire, fa delle statistiche, che qualcuno riesce a misurare. E questo, come dire, ora, da una parte è molto interessante, dall'altra fa alzare abbastanza i livelli di guardia. Ecco, ancora un'ultimissima cosa. E se tutto questo non fosse utilizzato per ragioni commerciali, ma per far passare una tipologia di informazione? Noi sappiamo benissimo che le ricerche di Google non sono uguali in tutti i punti del mondo. Noi sappiamo bene che le ricerche che noi facciamo in Italia sono diverse da quelle che farebbe un'altra persona scrivendo le stesse parole in Francia, e sono diverse da quelle che ci sono in America. In particolare, sono particolarmente differenti se noi siamo in Cina, ad esempio, dove ricercare un qualcosa su Google aziona tutta una serie di filtri per far sì che certi argomenti non escano. E questa cosa deriva dal fatto che non soltanto noi siamo in Cina, ma che veniamo codificati come persone che fanno parte di quel mondo, perché comunichiamo con certe persone e bla bla bla bla. Questa cosa nel nostro libro viene affrontata nel capitolo dedicato ai filtri, ovvero come come i filtri permettono di semplificare la ricerca e di conseguenza alterino la realtà. Perché fino adesso abbiamo detto, ok, Google fa tutto questo livello di statistiche su chi siamo noi, come comunichiamo e altre cose, ma tutto ciò è anche utilizzato per far sì che i risultati siano alterati, in base a dove ci troviamo, alla lingua che parliamo e una serie di operazioni economiche e politiche che ci sono dietro. E oltre che un'alterazione di tipo fisiologica come questo qua, c'è anche una patologica, ovvero... Google ha una visibilità su un internet che non è tutta l'internet, ma solamente su una parte di internet. Alcune parti non sono digitizzate, alcune parti non sono direttamente raggiungibili, ma devi stare a navigare dentro un singolo sito per riuscire a raggiungerle. Di conseguenza, alcune informazioni che noi magari vorremmo avere non sono potenzialmente recuperabili da Google, ma ci sono lì a magari di distanza, ma non lo sappiamo, dovremmo proprio avere una forma mentis differente per riuscire a trovarle. Esatto. Beh, un esempio di questa cosa sono i treni per quanto riguarda Trenitalia. Google non è capace di relazionarsi a siti dinamici come potrebbe essere Trenitalia, in cui devi inserire dalla città in cui parti alla città in cui vorresti arrivare e in che periodo. Questa cosa Google non la fa, se non con pochissimi siti in cui ha stretto delle... delle relazioni economiche con cui appunto può accedere a queste informazioni. Ci sono stati fatti degli studi per comprendere di che grandezza sia questa parte di web dinamicamente creata, ed effettivamente capiamo molto bene da questi studi, che poi dopo andiamo a affrontare nel libro abbastanza nel dettaglio, che l'immagine che può darci di Google, l'immagine che internet che Google può darci di internet è veramente molto limitata rispetto alle reali potenzialità. e che tutto ciò che noi riceviamo è dettato da filtri della selezione, quindi impossibilità di Google nell'accedere a certe informazioni, come potrebbe essere Trenitalia, impossibilità di Google a darci delle informazioni per ragioni politiche se noi siamo in Cina, economiche se ci sono dei filtri per far sì che certe informazioni non arrivano, piuttosto che degli ordini differenti in base alla tipologia di persona che noi siamo. Effettivamente non possiamo noi dimostrare che Google non ordini i risultati in base a ciò che Google ha capito di noi dall'utilizzo dei servizi che ci offre. Se noi parliamo sempre di equitazione e hacking, o non lo so, di programmazione di computer, non è detto che l'ordine dei risultati alla ricerca qualsiasi cosa derivi anche da questa tipologia di filtro, cioè che ci mettano prima un risultato piuttosto che un altro. Perché? Perché noi ci occupiamo di questi argomenti e quindi questo potrebbe possibile che sia più inerente a ciò che noi realmente vogliamo ottenere. Se posso, ottenere. Mi viene una domanda e poi da raccontare una storia. La domanda che mi viene da fare è un po' a voi, nel senso che alla fine, come dire, un po' a voi in quanto hacker, non so come dire perché non posso definirmi tale. Però la domanda che mi viene è, insomma, gli hacker sono stati un po' i primi a essere stati mappati. Diciamo, se non proprio gli hacker, che è una parola un po' scivolosa, quantomeno diciamo chi sviluppa, chi smanetta, cioè chi è un chi po' geek, come dire. Chi ci vive su internet. Cioè, sono stati i primi a cui sono state fatte, come dire, le domande salienti. Cioè, probabilmente si sono dedicati a noi utenti comuni, con tutto questo, come dire, apparato estremamente raffinato in un secondo momento, ma senz'altro, come dire, in una prima fase si sono dedicati più a voi e ai vostri interessi dal non punto di vista certo. Aspetta, la seconda cosa che mi viene invece è una storia sulla pornografia, perché così un po' per alleggerire la faccenda, dire un po' di minchiate, no, anche no, così e raccontare un po' di cose. I siti porno. Allora, questi cazzo di siti porno, di cui si sa veramente poco, mi spiegavano i miei amici hacker, che sono stati tra i primi grandi sperimentatori di modi per gabbare Google. No, perché si diceva, no, più saranno conosciuti e più saranno famosi, che per comparire tra i primi risultati bisogna essere estremamente linkati, estremamente connessi. E una volta un mio amico hacker mi ha detto: andiamo a vedere le statistiche pubbliche del tuo sito internet. E il mio sito internet poteva essere ippolita.net, come poteva essere autistici.org, come poteva essere altri siti N degli miei amici che hanno società o che hanno il loro blog, che hanno un sito a statistica pubblica. In quel caso, cioè, c'erano un casino di risultati che dicevano: queste persone si sono connesse da siti porno. Cioè, uno che stava cercando gangbang, alla fine arrivava sul mio cazzo di sito. E dicevo, ma no, cioè, sì, come sì, cazzo, ma aspetta, è possibile che... Trovava un link al mio sito su un sito porno. È come sì, se un sito sì. porno linkasse il mio sito. Sì. Piuttosto okay. che... Sì. Per cui io mi domandavo, ma... come cazzo è possibile che uno, cioè, non esiste, perché un sito porno dovrebbe linkarmi? Che storia è? E questo semplicemente perché il sito porno, come dire, aumentava il proprio ranking. Uno che mi ricorda era Tette Famose, che linkava Tette Famose, perché chiama... tettefamose.org? Dovrebbe... cioè, ma non uno, cioè un botto. Quindi, cioè, i siti porno cosa fanno? Cioè... floddano di link i nostri siti a statistiche pubbliche, cioè cosa fanno? Usufruiscono del nostro page rank, cioè del nostro essere famosi su Google, per diventare famosi essi stessi. Cioè, perché oltre che il se sei famoso diventi ancora più famoso, c'è anche il se dico di conoscere qualcuno di famoso allora anch'io cresco. Così questi siti porno linkavano loro che erano famosi, così che da crescere. Esattamente è come una serata mondana in un salotto del e cazzo della Milano Baku. È come dire, esatto, è come dire se lui ha un sito un po' sfigato che vedono in pochi, poco importante, cosa però lui Vabbè, però lui ha un sistema che è facile essere compreso da Google dal punto di vista delle statistiche, nel senso che Google è capace di comprendere come funzionano gli accessi al suo sito, per ne ragione, non ci interessa. Esistevano, per fortuna non esistono più perché Google ha cambiato un po' strategia, esistevano dei siti internet, dei programmi per far sì che venissero simulati gli accessi al suo sito da dei click su dei siti porno o dei click dei siti in generale, tendenzialmente comunque erano porno. Questo per quale motivo? Perché così Google capiva che lui aveva un sacco di visite, perché questi programmi facevano visite su visite su visite, quindi il suo sito diventava importante, lui cresceva di importanza e crescendo portava con sé tutte quelle persone che lo linkavano. Perché ci sono tante persone che dicono lui è famoso, ma ha un sacco, tutte le persone che ci sono attorno saranno ovviamente anche loro famose. Perché capito che di poco, che sicuramente meno di lui, ma di un po' anche appunto. Eppure noi sappiamo che internet, che è un po' specchio della realtà, non è fatto solo di strade illuminate. Io so che Baku non ama molto questa metafora, però internet è fatto anche di luoghi poco illuminati. È fatto anche di luoghi morti o semitali. È fatto di luoghi che non sono immediatamente gestibili da un qualcuno che agisce con la logica e con gli strumenti tecnologici di Google. Perché se specchio della realtà, noi sappiamo che la realtà è piena di vicoli, è piena di luoghi oscuri in cui fortunatamente o sfortunatamente possiamo trovarci a camminare, a esserci, a fare delle cose anche lì. E quindi, come dire, non è vero che Google è capace di mappare tutta internet. Per quanto ce la racconti, ci saranno sempre delle strade buie dove noi possiamo fare nel bene o nel male e gli stracazzi nostri. C'è però una cosa che io, scusate, vorrei interrompervi. Noi stiamo parlando un po' di tutto e in modo abbastanza vago, ma se voi ci passate delle domande, noi capiremmo anche voi di più cosa vi aspettate e cosa può interessarvi. Finalmente la prendiamo una birra. Quindi se avete domande, questo è il momento giusto. Comunque, più che domande, dei pensieri che sono stimolati o dei paragoni, delle comparazioni con altre faccende. Voi che modello di ricerca usate? Allora, c'è una pagina che ti indica i 100 motori di ricerca alternativi a Google. Io uso per lo più Google, però scoprirei che ci sono degli altri che per alcune caratteristiche specifiche molto settoriali possono essere migliori. Se impari a conoscerli, buon per te, diventa strumento in più. La cosa migliore, comunque, a lunga, non è tanto trovare tutti i motori di ricerca esistenti e usare il migliore nel singolo caso, ma è usarne anche solamente uno, quindi Google, per riuscire, quando vedi le informazioni, i link, a scremarli meglio, a non basarti sul primo, ma aprirne tanti da lì, fare una selezione, a non affidarti solamente a una keyword specifica, ma a fare delle ricerche in modo più corretto, cioè imparare a usare questo strumento in modo più corretto. Se tu impari a usarlo, sei tu che guidi lui, altrimenti è lui che guida te. E questo dal punto di vista sia un po' filosofico che tecnico. Però a questa domanda posso anche rispondere in maniera, come dire, squisitamente politica. Nel senso che noi negli anni abbiamo imparato una cosa importante, che si chiamava agire comunicativo. Questo agire comunicativo presupponeva il fatto che noi potessimo compiere anche dei gesti illegali, però totalmente, come dire, alla luce del sole. E questa cosa, come dire, può essere riportata anche nell'ambito tecnologico, nel senso che io, come dire, principalmente uso Google per fare le mie ricerche. La differenza tra me e un utente inconsapevole sta nel fatto, per l'appunto, che io so che il mio telefonino è sotto controllo. Quindi, come dire, parlerò di cose che non sono, come dire, i missili terra-aria che trasporterò da Milano a Tel Aviv. E quindi, come dire, questo cambia la mia percezione della realtà e cambia la modalità con cui lo strumento che sto utilizzando percepisce il mio alter ego digitale. Ma noi siamo la minima percentuale. Come? Noi siamo la minima percentuale. Sì, però è estremamente importante, come dire, ricordarci che quello che abbiamo acquisito storicamente è un qualcosa che possiamo utilizzare anche laddove, come dire, il tutto ci sembra un oscuro scrutare. Quindi, come dire, avere, e questo di base, idea del fatto che siamo rintracciabili e del fatto che, pur essendo rintracciabili, noi abbiamo, come dire, 3 anni di condizionale da giocarci, questo nel peggiore delle ipotesi. Nella migliore delle ipotesi noi abbiamo un sacco di cose da dire, nella migliore delle ipotesi noi abbiamo la possibilità di usare queste cose come amplificatore totale, per cui che possiamo essere, come dire, assolutamente degli opinion leader in quella che è la nostra navigazione e il nostro interagire col mondo. Per cui sapere che ogni volta che io vado a cercare un qualcosa, io sono la differenza. Io sono, come dire, uno standard assolutamente, come dire, imprevedibile rispetto a quello che è il mondo, come dire, della statistica più estrema. Questo c'è giusto per fare una breve digressione. No, c'è solamente lui che aveva chiesto quale motore di ricerca usiamo. Arianna? No, tu usi ancora. Ma va. Comunque ci sono un po' di modi per eludere tutto questo sistema di controllo. Sì, magari possiamo... Il discorso è che quello che è importante capire è che non è... Poi magari qua incomincio un attimo il dibattito. Non è un non è che esista uno strumento tecnologico per evincere Google. Cioè, per me per che esempio, per esempio, uno potrebbe dirmi, vabbè, cancello i cookie... Cioè, cancello dal mio computer quelle informazioni che Google salva, in modo tale che ogni volta che ritorna su Google è come se fosse la prima ricerca. Sì, potrebbe funzionare, però poi magari ho una serie di persone che utilizzano Gmail e che mi scrivono su un indirizzo che non è Gmail, però scrivono un indirizzo sempre solito. E quindi come tale Google può sapere benissimo quali sono gli argomenti che mi interessano, perché sono quelli di cui i miei amici mi scrivono. Così come potrei inventarmi una duplice identità e utilizzare una configurazione del mio computer per ricercare alcune cose, e poi quando voglio ricercare altre cose invento il mantellino nero, mi creo un altro account, vado su un'altra parte e ricerco. Benissimo. Avrò creato due identità su internet, sarò schizofrenico su internet perché avrò due personalità, però dal punto di vista di Google è esattamente la stessa cosa, perché a Google non interessa veramente chi sei tu, ma a che categoria di persona appartieni, chiaramente cercando di targetizzare il più possibile e capire quali sono le tue caratteristiche peculiari. Quindi non è che esiste veramente una possibilità tecnologica per superare un qualcosa, anche perché quello che sta facendo attualmente Google è comprare servizi su servizi. Quindi magari io sono molto attento alle ricerche che faccio, ma non sono altrettanto attento ai video che vedo, o non sono altrettanto attento alle foto che pubblico su internet, o a che commenti, su che blog io scrivo dei commenti. Quindi non esiste un... concettualmente, dal punto di vista proprio filosofico, un qualcosa che mi possa dire esiste un qualcosa di tecnico che mi permette di superare il controllo di Google. Anche essendo anonimi, cioè sembrerebbe che io arrivo dalla Norvegia invece sono in Italia, ma praticamente sono sempre una persona che parla in italiano e fa le sue cose come sempre e sta facendo dalla Norvegia. Per farvi capire meglio, racconta la metafora che hai trovato sulla traccia. L'impronta. No, è molto semplice da raccontare. Ah, ok. Allora, supponiamo che io sia una persona che cerca di hacking, erboristeria e equitazione. Cancello il mio cookie piuttosto che sparisco per un po' dall'Italia e vado via da un'altra parte, ritorno in un'altra parte del mondo e i miei interessi però non sono cambiati. Mi sono anonimizzato, ho cambiato identità, eccetera, eccetera, però cercherò ancora di erboristeria, hacking e equitazione. Quante persone cercavano di queste tre cose prima? Una sola. Quante persone stanno ancora cercando di questa cosa? Una sola, quindi la persona è la stessa. Questo esempio mi è sembrato molto semplicistico. Fate questa riflessione con i vostri cellulari. Supponete che qualcuno di voi decida che il suo proprio cellulare ha avuto una storia, magari l'ha perso, piuttosto che ha fatto le chiamate di quale si è pentito, eccetera, eccetera, dice butto via la SIM. Va bene, prende un'altra SIM. E aggiungerà ancora il numero di sua madre, dei suoi amici, della sua ragazza, dei suoi altri amici che nessun altro conosce. Quante persone corrispondono a questi contatti? Quante persone hanno la stessa impronta sociale? Ovvero, quante persone hanno quel tipo di contatti? Solamente una. Prima aveva una SIM, adesso ne ha un'altra. La seconda magari sarà svizzera, sarà registrata un altro nome, non importa. Si capisce che è la stessa persona. Ha solamente cambiato il modo con cui si sta ponendo agli altri, però alla fine socialmente i contatti che... hai sono quello che sei, un po' come si diceva che la storia che hai è quella che sei, i contatti che hai discrimina sempre la tua vita e la tua identità reale, non digitale. Questo chiaramente ha un valore nel momento in cui esiste un qualcuno che vuole fare un controllo. Non è che dobbiamo preoccuparci per forza, cioè non tutto ciò che vi diciamo non deve essere a favore della vostra paranoia, nel senso che adesso tornate a casa e oh mio Dio, è bruciato il computer, fate delle cose alla pazza. Ma semplicemente sapere che certe cose funzionano in un certo modo, e che non è che, dato che state lavorando sul vostro computer che è nella vostra cameretta e che quindi è inviolabile perché avete pure chiuso la porta di casa, oltre che antivirus, allora è sicuro. Perché sono ogni volta che informazioni che date, perché ogni volta che voi comunicate attraverso questo strumento, cercando su internet, piuttosto che anche utilizzando programmi che magari funzionano sul vostro computer, ma che di cui voi non potete leggere il funzionamento reale, perché magari è Windows Vista o magari è non lo so, un programma Office o un programma Close che avete comprato da qualche parte, voi non potete sapere esattamente cosa sta facendo e dovete quindi cercare di vedere il computer, il vostro strumento, come un qualcosa che, con cui dovete relazionarvi esattamente come vi relazionate col vostro cellulare quando sapete che è sotto controllo e quindi non affronta certi argomenti. Non scrivete certe cose su Word perché non sapete esattamente che cosa Word sta facendo con quelle vostre informazioni. Ma non solo... Però posso... Prego. Cioè, guardando le cose invece, che ne so, così, io un po' ho letto il libro, un po' di domande che avevo in qualche modo non ho più bisogno di farle, però mi veniva da fare una riflessione. Cioè, se guardo le cose al contrario, in qualche modo Google non è che fa grosso business sulle informazioni che gli do, se non in qualche modo un business molto discreto che mi sento ingenuamente di poter evitare, non ho la carta di credito per cui non vado molto lontano, se mai voglio cercarmi un negozio magari mi torna utile che lo trovo, no? E tutto sommato in qualche modo risulta positivo il fatto che se quello che voglio trovare Google mi permette di trovarlo, diciamo a maggior ragione funziona il gioco. Poi mi rendo conto anch'io che alcune volte non funziona, raramente non funziona, però generalmente se voglio trovare qualcosa Google mi permette di trovarlo. Allora, sì, posso rispondere io? Okay. Mi va. Sì, è giusto. Ma io non ho ancora finito la domanda. No. Ah, scusa, è vero, non l'hai fatta, è vero. Ok. Per cui, come dire, c'è una sottile differenza, se non in qualche modo c'è, dalle descrizioni proprio lucide, approfondite, risulta in qualche modo di, seppur con dei buchi neri o, come dire, delle strade oscure, Google sembra quasi, come dire, il demone di Laplace, quello che, come dire, controlla tutto. Però tutto sommato, nel senso, non è come avere il telefono sotto controllo dalla sbirraglia. È, come dire, sì, cioè, se io ho Google dire, sono tracciabile. E se Google fosse sotto controllo? Però non è come avere, cioè, per dire, e non è neanche come avere la Fidelity Card. E se Google so che, come dire, la Fidelity Card fanno del grosso business su quello che sto facendo, no? Ok, okay. Supponi per due aspetti. Ma facciamo definire la domanda, forse non è che c'è proprio. Ragazzi. Se vuoi continuo ti faccio scappitare ancora. Sì, devo far sbavare. Devo dare due frustate. Che avevamo tre risposte diverse a testa adesso. Tutto qui, nel senso... La risposta comunque è 42. E 15? E quindi non lo so, nel senso... Forse è una visione un po' così, un po'... No, non è affatto, non è affatto sbagliata. Sì, effettivamente Google non è fatto per controllare singoli individui, ma per individuare, cioè, le tendenze nelle macro regioni piuttosto che dei comportamenti di masse di persone. Per, cioè, tutto questo per dire chi cazzo, poi magari potremmo vendere a che page, cazzo ne so, gli istituti statistici. Come dire, a chi cazzo vendono queste cose se non se ne fanno un dettaglio. Nel 2001 ha scoperto che Google ha una partnership con la CIA. Ok, però questo qui, cioè, si parla di CIA, quindi non è che importa. Che retroscena ci sono dietro? Pornografia, pedopornografia. Esatto. No, il discorso, discorso è un attimino più, no, però nel senso, voglio dire, c'è una mappatura sull'elettroscena di Google o sì, possiamo farti ora. Ok, sì, puoi fare la mappatura e la farate paranoia cruda, però prima una cosa più leggera, poi dopo arriva la paranoia. Pornografia. Allora, parliamo dice, di pedopornografia. Uno dice: che cosa posso dare io a Google se io nella mia realtà appartengo comunque a una minoranza? Perché magari, cioè, compro dei libri che non comprano gli altri miei amici, e che ascolto della musica che le altre persone che conosco non ascolta, e faccio parte dichiaratamente di un... questo lo fa. No, aspetta, perché Baku benissimo sta arrivando a qualcosa di molto importante. Bene, sai qual è la differenza principale fra la libreria che hai qua a 200 metri, non credo ce ne sia uno, però insomma, tra la Feltrinelli di Abbiate Grasso, del se centro, esiste, no, del centro di Milano, ok? C'è a Milano, giusto? Quella libreria è Amazon. Quella è la principale differenza. La principale differenza è che, per quanto sia grossa la libreria di Piazza Duomo a Milano, non conterrà mai tutti i libri del mondo. E quali libri conterrà? Conterrà quelli che vengono maggiormente venduti, perché su quelli ci faccio il business. Quindi, se il Papa scrive un libro, ma ne avrò milioni di quel libro. Se Anaï scrive un libro, ne avrò 4 copie. È sotto il bancone. Ma magari anche no, perché magari adesso ne ha 4 copie perché va, perché è nuova, appena uscita, e quindi magari ce la fa. Però se non riesce a superare, non lo so, tot numero di copie, sparisce nel giro di 2 mesi. Quindi tendo a tenere i libri che maggiormente vendono. Bene, su internet funziona esattamente l'inverso. Ovvero, dov'è che guadagna Amazon? Non nel libro del Papa che tutti quanti comprerebbero nella libreria sotto casa, ma nel fatto che è capace Amazon di vendere a quelle pochissime persone che comprerebbero il libro di Anaï, che sono 4 gatti al mondo, quel libro nel momento giusto. Adesso sto esagerando, scusa, se ho preso come soggetto. Moltiplicato per tutte le Anaï del mondo. Ok, cioè il fatto che questo discorso si chiama coda lunga, ovvero ci sono tantissime persone che comprano poche cose, ok, quindi questa fascia, e tantissime persone che comprano pochissime cose, cioè la nicchia, il libro su, che cavolo ne so, su cavalli e segugi, hacking e pornografia. Ora, qual è la cosa interessante? La cosa interessante qual è? Che a me non interessa tanto sapere chi compra quel libro. A me interessa sapere qual è la comunità di persone che è interessata a comprare quel libro. Ovvero, esisterà una comunità che si occupa di segugi, che comprerebbe quel libro, tutti quanti probabilmente lo comprerebbero, che è composta da 200 persone al mondo. 50 di queste lo comprano, quei 50 a me interessa raggiungere. Quelle 50 implementano un livello sì, aspetta, economico gigantesco. Per passare a quei 50 io non posso raggiungerle basta, perché non so chi sono. E quindi a me interessa sapere che magari anche tu fai parte di quella comunità, anche se non lo comprerai. Ma monitorando te, monitorando le email che spedisci, monitorando con chi comunichi, potrò raggiungere quelle 50 persone. Poi attenzione, una prigione senza sbarre. Quando si parla di monitorare si pensa normalmente al fatto che i propri dati vengono analizzati da una persona, eccetera. Qui no, si parla di correlazioni automatiche. Quello che viene fatto automaticamente lo si può subire, ma questo non esclude il problema del fatto che c'è un nostro profilo che ci scrive in dettaglio, che potrebbe anche andare in mano di qualcuno che non vorremmo. E poi, non so, un nuovo tipo di capitalismo, nel senso che beh, volendo decentralizzare di più. Sì, è totalmente sì, deterritorializzato. Cioè, riesce a identificare la specificità. Questo è essenzialmente il problema. Bah, problema, non lo so. Semplicemente è un dato di fatto. Cioè, che mi identifichino come nicchia, di fatto politicamente potrebbe anche non essere un problema. La questione è che c'è un respiro economico gigantesco, cioè il fatto che dal punto di vista, come dire, la borsa internazionale, questo è un flusso di denaro gigantesco. Cioè Amazon funziona così, ma anche eBay funziona così, cioè eBay funziona perché tu compri il frigorifero usato del tuo vicino di casa su eBay. Cioè la questione è: quanto più ravvicinate sono le prossimità, quanto più specifico è l'interesse che riesce a identificare. E questo meccanismo è un meccanismo per l'appunto economico, studiato in particolare, teorizzato da Barabasi, che che si chiama meccanismo a coda lunga, sistema della coda lunga. La coda lunga è... Se trovate un libro di Barabasi, prendetelo perché è interessante. Link, che è un po' vecchiotto, però ci sta. 98, la coda lunga mi fa anche dire, metto una riflessione sulla risposta che volevo dare a Ricky. Cioè, tu hai fatto la tua analisi giustamente sulla tua percezione dell'utilizzo di internet. Sì, sì, sì, ma ti abbiamo sistemato in due minuti. Ma cioè, il modo con cui tu usi internet è il modo che lo usa la maggior parte delle persone. Quindi, se tu la persona, cioè, è la maggior parte delle persone che interessa ai leader, perché non è la nicchia che interessa, la nicchia è una percentuale infima. La maggior parte invece no, è la massa, è l'opinione pubblica, è la conoscenza di quello che vogliono le persone. Ovviamente poi tu nel tuo specifico personale hai magari delle tendenze che sono anomale, però non è importante. Meglio anzi. Cioè non è questo, stiamo entrando in quel merito. Quello che stavo dicendo è, quello su quale tu non fai forse considerazione è che va bene, tu nel singolo specifico fai poche ricerche, ti affidi poco e non puoi neanche fare acquisti online, ma da anni usi un motore di ricerca e il vantaggio del tempo e del fatto che possa tracciare tutto quello che hai fatto in questi anni può descrivere quello che la tua vita ha fatto. Il fatto che io faccio una cosa e prima ricerchi su Google se qualcuno l'ha fatto, piuttosto che io stia studiando un'operazione e mi metto a fare delle ricerche che riguardano solamente quella, fino al punto di scriverla con delle frasi sopra la barra di ricerca, fa in modo che si sta creando una sorta di archivio, e sospetto, qui devo attaccarmi dopo, che descrive tutto quello che ho fatto in vita mia. Ora, noi stiamo parlando adesso di Google come entità nemica, piuttosto che il gigante buono con forse il lato scuro. Però, un lato che si considera raramente è che la rete è composta da una serie di interminabili passaggi. Ora che arrivo a Google, che è in America, io passo per molti posti all'interno dell'Italia, poi all'interno dell'Europa, poi arrivo in America. In questo momento sono delle leggi di data retention vuol dire conservazione dei dati, che per motivazioni antiterroristiche, anche se è più che dimostrato che non si combatte il terrorismo in questi modi, danno la possibilità a governi, piuttosto che entità governative, anzi normalmente sono società esterne che fanno supporto a forze dell'ordine o forze investigative o sbirrame vario, ad accedere a questi dati. Di conseguenza, se qualcuno monitorasse una persona specifica, piuttosto che un sito specifico, che potrebbe essere Google, potrebbe sapere che la tale persona da quel periodo ha fatto questo tipo di ricerche e non ha cambiato cookie, piuttosto che non ha cambiato il suo utente, piuttosto che ha fatto questi tipi di mail. Quindi il problema non è solamente a Google come entità americana, che noi percepiamo chiaramente come qualcosa di alieno, distante, che non ci potrà mai dar fastidio se non con i suoi sistemi via web. Dobbiamo pensare anche al fatto che i dati che noi non stiamo esplicitamente proteggendo in rete, dobbiamo considerarli persi, tra virgolette, perché non essendo cifrati, possono essere intercettati, possono essere persi, possono essere diffusi da qualcuno che li diffonde perché c'è un virus e non lo sa, possono essere diffusi dal fatto che qualcuno li condivide sui mule o anche noi stessi, o diffusi perché qualcuno li passa su un blog per sbaglio e li vengono indicizzati da Google e quindi rimangono a tempo indeterminato. Quindi non siamo solamente sensibili a quello che stiamo dando pensando che sia poco, siamo sensibili sul fatto che quello che non stiamo proteggendo è molto. Non so se è stata chiara come cosa. Sembri un reverendo, minchia. Quando dice queste cose poi va un piglio un da tecno, reverendo che... Un tecno misticista. Una dura reprimenda proprio su morale, su... Non andate sui siti porno, che vi cadono le mani. Cioè, siete ciechi. Siete ciechi perché... Perché flash. Perché flash, giustamente. Posso fare una domanda? È già fatta. No, io non sono quello di prima. No, no, l'hai già fatta, che non posso fare una domanda. Ah, ok. Scusa. No, ti volevo chiedere sulla storia della privacy, no? Tu prima hai detto che essendo fatta da una macchina non c'è violazione della privacy. Ah no, non ho proprio detto questo. Anzi, volevo attaccarmi per spiegare un dettaglio. Quando tu accetti la licenza di tramite di Google, Google ti dice, ah sai, analizzerò le tue mail e serviranno per varie cose, tra le quali darti messaggi pubblicitari, ti va bene? E tu dirai, beh certo. Però aspetta, in questo momento io ti ho detto, potrò fare tutto quello che voglio con i tuoi dati, e la motivazione apparente è questa, e questo qui è un punto. Poi un altro punto è, i dati che tu decidi di cancellare verranno rimossi, posto che questo non può essere assicurato, perché? Per come funzionano gli storage e la distribuzione dei dati per la conservazione, non è detto che noi possiamo davvero rimuovere il dato e non averlo più. Quindi Ruth sta dicendo chiaramente, tutti i dati che passano, noi potremmo farci quello che vogliamo per tutto il tempo che vogliamo. Però le motivazioni apparenti, beh, sono che, cioè, l'informatica è una deterministica anche per noi, e poi ci serve solamente per la pubblicità, davvero, siamo buoni. Cioè, sì. La licenza dice una cosa, quello che tu puoi leggere tecnicamente coperto con la licenza è un'altra cosa. Adesso è un po' come i contratti, che sì, dopo cerchi il vincolo. C'è una polemica in corso proprio in questi giorni rispetto alla conservazione dei dati di Google, per cui rispetto al territorio europeo si sta chiedendo a Google, cioè, di mantenere i dati per non più di 6 mesi. Ma attenzione, anche questa legge qua non cambierebbe più di tanto il nostro rischio, per due motivi: sia perché qualcuno può intercettare sul transito, sia perché se Google, cioè Google presumibilmente non tiene i nostri dati a ma tempo determinato, ma elaborazione dei dati, l'elaborazione dei dati è una derivata, sono altri dati suoi. Vuol dire e che se nel comitato se dice, bene questo. Ah, vuol dire che se io sto cercando i microfoni, non scriveranno le 30 query di ricerca su microfono nome della marca, microfono folletto, microfono forte, microfono amplificato. Cercheranno, ha cercato per 30 volte il microfono, e questo è più che sufficiente per stilare un mio profilo, una mia iscrizione generale. Di conseguenza questa 30 volte il microfono non è un dato personale, è un dato derivato. Se poi c'è una legge europea che dice cancellare dati personali dopo 6 mesi, diranno va bene, risparmiamo più spazio. Però intanto il dato derivato, se gli serve, c'è già. E questo, certo, non è solamente appunto legato a Google, il fatto che le cose che passano transitano verso Google sono intercettabili perché non sono cifrate. E quindi allora, c'è anche da dire, no, tratto immaginifico. C'è da dire che io mi ricordo la prima volta che mi hanno fatto vedere come Google conservava i propri dati fisicamente. Non so se vi è mai capitato, però io sono rimasta super flashata, perché praticamente io il massimo che avevo visto ritorno nella mia vita dal vero erano i rack, quelli che stavano nelle aziende dei miei amici o dove i miei amici lavoravano, che sono degli armadi con dentro dei cassetti che sono dei computer, no? Quello lì era il massimo della percezione che io avessi avuto di conservazione dei dati. Dopodiché mi hanno fatto vedere le fotografie, i progetti e come si costruivano i silos per la conservazione dei dati di aziende grandi come Google. E sono praticamente degli ottagoni giganteschi, dei veri e propri silos super refrigerati, come delle casette dove tu puoi entrare e ci sono praticamente degli ottagoni, tipo, per cui sono degli armadi ad ottagono dove dentro ci sono tutti i rack, così come noi siamo abituati a pensarlo, solo che ci sono, che al centro c'è una specie di colonna con dei bracci meccanici che girano, e questi bracci meccanici spostano hard disk a caldo. Cioè, in realtà c'è un continuo movimento di bracci meccanici che spostano informazioni, e questa cosa moltiplicata per 10, tipo 20, 30, disposte in tutto il mondo, per cui in realtà hanno, cioè, come dire, uno storico di informazioni gigantesco, veramente. E siccome, come noi sappiamo, la soggettività è sempre più avanti della norma, noi possiamo discutere di norme, ma la soggettività che si forma è sempre incredibilmente più avanti della, come dire, della legge, della legiferazione attorno ai comportamenti umani. Per cui loro hanno potuto in realtà sperimentare e accumulare cose nel corso degli anni enormi, sulle quali poi è voglia dire che esiste una norma sulla privacy. Dopodiché loro hanno, come dire, cioè, dei database giganteschi che spostano informazioni a caldo. Ed è uno scenario veramente un po' Matrix, nel senso che qualche giorno fa mi sono rivista proprio il film, il primo Matrix, e devo dire che, cioè, è vero che ha colpito il nostro immaginario e ha colpito molto seriamente rispetto a quello che è, come dire, questo metamondo della rete dove agiscono altri agenti e agiamo anche noi, e che però, come dire, fanno cose che sono per lo più molto distanti da quella che è la nostra percezione anche un po' fantascientifica dell'informatica. Basta. Stavamo facendo una discussione privatissima. No, le speculazioni. Parliamo di calcio. Di braccione. Diteci voi, davvero. Se voi ci fate domande, noi capiamo che tipo di percezione, altrimenti di interesse. Facciamo una conclusione così, un po' smarti. Che io non so fare. Nemmeno io, ma lei è bravissima. Ma poi è davvero importante che noi capiamo cosa può interessare di più a voi, così che stiamo il vostro profilo, e la prossima volta che parleremo applicheremo il vostro profilo Esatto. E se pensate alla profilazione, quella cosa che tutti noi facciamo, perché il nostro cervello ha bisogno di profilare. Se una persona insanguinata ci corre addosso con una mannaia, probabilmente scappiamo. Magari è il macellaio che ci sta dando il resto e mi ha dimenticato, ma la profilazione ci fa capire. Se ti seguono un sacco di persone, probabilmente ha dei problemi. Sì, ecco. Chiaro. La profilazione è questa. Hai anche detto di pregiudizio tecnologico. Sì, è incredibile, perché poi di fatto non è che Google faccia così paura, cioè visto in un contesto più ampio... Se io posso dire una cosa un pochettino così, giusto per smorzare un attimo il discorso, penso che più che preoccuparci di Google, dovremmo riuscire a superare la convinzione orwelliana del Grande Fratello. Capire che non esisterà. Che fondamentalmente non esiste. È un'estremizzazione. Ma pensare che noi siamo circolati da piccoli fratelli. Che è molto peggio, vuol dire che più che Google che sa tutto di noi, tu dici vabbè ok basta risolvere il problema Google e dopodiché sono in discesa, devi confrontarti con Google per quello che riguarda alcuni servizi, confrontarti con l'Essilunga che è veramente un piccolissimo Grande Fratello. Con la telefonia mobile. Con Wind, Vodafone 3 o quello che è. Dopodiché con l'assicurazione della vostra auto, dopodiché con una o serie con di... la RAI che ti chiede l'abbonamento. E col decreto Gentiloni, quello per cui ogni pagamento sopra 100 euro dovrebbe essere... Sì, ma piuttosto che, non lo so, il vostro provider. Il vostro provider che memorizza tutte quelle... Oppure semplicemente il vostro sistemista di fiducia che ha un enorme potere su di voi. Che in realtà non è così di fiducia. Più che pensare veramente a Google come il nemico, dovreste pensare al fatto che... Cioè, dobbiamo pensare al fatto che siamo circondati da... tantissime piccole realtà che hanno una visione ben precisa di noi, di uno sospetto, anche semplicemente il fidanzato smanettone che se vuole ti controlla le email o il vicino di casa un po' wire che... Sì, ma ognuna di queste corporation qua è in grado di elaborare fino a questo punto tutta questa mole di dati? Cioè, no, solo Google lo è, cioè possono avere un'efficacia al 100%? Io dubito. No, è vero. Cioè, a un certo punto si implode questo meccanismo dell'ossessione per la raccolta dei dati. Sì, cioè, dopodiché perché... però succede che, succede che magari tu a un certo punto fai un'operazione che non fa tanto comodo a qualcuno, che magari è, guarda caso, lo Stato italiano, e decidono di fare un'azione contro di te e vanno a chiedere a il tuo operatore telefonico dove eri in che momento della tua vita, dopodiché vanno a chiedere a quest'altro, al tuo provider, che cosa tu stavi comunicando nell'ultimo periodo. Chiaro che sono delle banche dati di per sé poco importanti se prese singolarmente, ma nei momenti in cui queste banche dati vengono messe assieme o correlate da uno stato, ma che sinceramente me ne frega abbastanza poco, ma da qualcuno che ha la capacità di metterle assieme, ad esempio Google che le compra, questo incomincia a diventare problematico. Certo, devi essere un personaggio, come dire, particolarmente di spicco, qualcuno che fa cose particolari. Nel senso che a me è capitato, per dire, di avere una denuncia. Una volta mi avevano denunciata perché come avevano beccata con le intercettazioni telefoniche durante un primo maggio, non mi ricordo più di che cazzo di anno, dove una volta era stata fatta un'azione a un ufficio terinale, e un gruppo di noi aveva buttato della merda a un ufficio terinale, avevano portato della merda all'ufficio terinale, e tre di noi hanno preso una denuncia per questo, e la denuncia è stata presa attraverso le intercettazioni telefoniche, per cui semplicemente esistono delle celle distribuite per Milano, per cui hanno capito che io in quella giornata, in quel preciso momento, mi trovavo vicino a una cella che stava nei pressi di quell'ufficio terinale. Quindi io sono dovuta andare in tribunale a dire che sì, io ero vicino a quella cella. Tu in tribunale a dire io ero in quella zona? Quindi io sono dovuta andare in tribunale a dire che io sì, ero in quella zona, ma stavo facendo altro. E in quella fattispecie ho portato, per esempio, a testimonianza, cioè mi hanno detto tu hai telefonato alle tot redazioni giornalistiche per dire che era avvenuto un fatto, come eri a conoscenza del fatto che fosse avvenuto quel fatto, perché eri presente, da chi l'hai preso, da chi hai avuto l'informazione, tutte queste robe qua. Allora io ho detto che quelle informazioni le avevo prese da un sito internet, e quindi ho portato a testimonianza un post che era stato fatto su un sito internet che al tempo era in Media Italia, e che testimoniava il fatto che come dire, io avevo preso l'informazione da lì e che la persona che l'aveva postata era un'entità anonima alla quale io non potevo risalire. Ok, e questo mi ha scagionato dall'ipotesi di reato. Ora, come dicevo, noi possiamo la norma, cioè l'apparato del normativo è molto più indietro della soggettività, per cui noi abbiamo la possibilità di sfruttare il più possibile la soggettività informatica, di modo, cioè il nostro soggetto digitale, di modo che, come dire, possa esserci utile. In quel caso, per dire, io ho potuto cambiare l'orario del post, molto semplicemente, per cui dimostrare il fatto che io avevo avuto quel post in un orario in cui, tutti, come dire, tutti l'avranno già visto. Secondo me è importante, non è tanto il caso specifico in cui c'è un'azione contro un qualcuno, ma il sapere che si è appartenenti a una serie di categorie e queste categorie possono essere utilizzate per identificare qualcun altro. E questo è molto importante. Era quello che diceva prima Ricky, io non comprerò mai niente, eppure il fatto che io esista e che frequento certe persone fanno sì che magari qualcun altro di queste compri un qualcosa e questa pubblicità gli sia arrivata perché magari Ricky ha fatto una comunicazione con qualcun altro di quell'argomento. E questo è molto importante, cioè non è per forza il caso specifico, perché poi dopo uno sembra io non farò mai niente nella mia vita, cioè non farò mai azioni legali, che me ne frega. Invece è molto più complesso, perché fa parte di dire non sei tu singolo individuo che devi relazionarti con l'ente, ma tu come elemento che fa parte di una precisa rete, e quindi tu col singolo movimento che tu fai su internet, la singola operazione, in qualche modo sappi che determini anche in minima parte quello che tutta la tua rete dovrà subire. È il famoso sbatto d'ali di farfalla che crea un uragano dall'altra parte del mondo, cioè la teoria del caos. È come dire, non lo so, se io mi occupo sempre di, quindi a un certo punto ricerco, non lo so, macchine fotografiche, quella macchina fotografica, quella ricerca di quel coefficiente di diversità, in qualche modo andrà a codificare tutto quel network di persone che gira attorno a me. E questo è molto importante, io devo essere consapevole di questo. Non esiste nessuna operazione che io faccio come singolo individuo e che ricade soltanto su me stesso o sulle persone di cui io posso immaginare. Ma è totalmente imprevedibile. Dipende da quanto è grosso il grafo, il network, la rete, che è stata creata purtroppo non da me, ma da qualcuno che ha creato una serie di relazioni personali. Più o meno? Sì, no, sì. Direi che ci siamo. Nel senso che, come dire, occorre che introiettiamo una serie di novità, o comunque o di cose vecchie, filosofiche che abbiamo studiato, di robe vecchie, politiche che ci sono arrivate e che però nella tecnologia trovano un loro corrispettivo molto materiale, molto reale. E questa è un po' anche la bellezza un po' dell'informatica, perché ci permette da una parte di sperimentare delle teorie che erano appunto solo teorie e dall'altra parte anche di avere, come dire, mano pratica a degli elementi di trasformazione. Ma dice voi, altre domande, dubbi, perplessità? Perché eri così scettica su queste nuove architetture del web 2.0, cosiddetto? Ma infatti mi veniva proprio da, come dire, suggerirlo poco dopo la tua domanda. Perché il web 2.0, come dire, sfrutta esattamente questo rumore bianco, questo rumore di fondo della relazione, del valore aggiunto della relazione, perché ultimamente per lavoro mi trovo a avere a che fare con quella che viene definita la blogosfera, ne parlavo anche poco prima di iniziare il dibattito, di quella che è, come dire, il complesso del porre se stessi sulla rete, no? Noi abbiamo conosciuto i blog in due modi. Il primo è stato con i blog di guerra, perché c'erano delle persone che dall'Iraq, dalla Palestina, raccontavano la propria vita. E in quel caso avevamo degli strumenti culturali che ci facevano riconoscere queste persone. Per cui il romanzo familiare, cioè il fatto che attraverso una storia personale tu riesci a ricostruire un tempo cioè uno ti racconta la sua storia personale, e tu ricostruisci un'epoca, i grandi romanzi, come dire, di Virginia Woolf, di grandi autrici e grandi autori che hanno saputo attraverso il proprio racconto descriverci un'epoca che cambiava. Oscar Wilde, che cazzo ne so, ce ne possono venire mille. Dall'altra parte invece le abbiamo conosciute attraverso Melissa P, per cui attraverso il fatto che l'esposizione delle viscere, cioè io ti faccio vedere le mie viscere, e questo, come dire, diventa bandiera, cioè questo diventa immediatamente business, diventa immediatamente qualcosa che fa scattare un livello di immaginario e di condivisione. Per cui hai il coraggio di esporre qualcosa che io non sono capace di dire, perché ho paura, perché mi vergogno, per tutta una serie di robe. Per cui c'è questa, come questo doppio frangente, no? Da una parte bianchi, eterosessuali, di lingua standard, caucasici, che raccontano le proprie viscere. E dall'altra invece zone decisamente poco connesse, dove la possibilità di raccontare se stessi diventa il racconto di un'epoca. E orientarsi in questo magma, che di fatto poi viene definito social networking, perché dal momento in cui questa cosa viene collegata al resto, per cui la persona nella zona di guerra si può mettere in contatto con, e Melissa P si può mettere in contatto con, questo diventa, come dire, un agire collettivo, un agire, una coscienza collettiva. Diffido un po' di questo, perché ritengo che, come dire, l'elemento occidentale, l'elemento che ahimè è residuale dal punto di vista culturale, stia prendendo un po' troppo corpo, mentre invece ci sia poca attenzione rispetto all'informazione vera, all'essere fonte dell'informazione reale. Per cui posso essere fonte di informazione reale anche se sono occidentale, la questione è che devo cercare di filtrarlo un attimo rispetto al mio desiderio di narcisismo, di volontà di potenza rispetto allo strumento della rete. E quindi, come dire, mi sembra un po' come la bolla della new economy, quando centinaia di persone potevano fare un sacco di soldi nella seconda metà degli anni 90 attraverso quella che era la scoperta della rete. Mi sembra un po' la bolla del web 2.0, per cui la scoperta del sé. È come se in un certo qual modo noi stessimo scoprendo di avere un proprio sé digitale da esprimere. Sì, diciamo in maniera, come dire, differente a seconda del luogo in cui ci troviamo. Ma non ha anche delle potenzialità? Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Per quello sì, che riguarda sì, sì, delle persone da sì, provenienze completamente diverse, da background culturali diversi, zone geografiche diverse, con esiti ovviamente imprevedibili, nel bene e nel male. Assolutamente sì. Ma di fatto non è... come dire, non si parla più tanto di bene o di male, cioè non è che vabbè, noi cerchiamo di tracciare una linea di demarcazione tra bene e male, quanto più quella di interrogarci su, come dire, i rivolgimenti. Sì. Di... quello che io posso dire riguardo alla critica al Web 2.0 riguarda due elementi. La prima è il fatto che tendenzialmente chi gestisce servizi legati al Web 2.0 è una società, nel senso che non esistono strumenti indipendenti, se non con veramente scarsi successi, che si occupano di community, social networking, quello che è. E i principali sappiamo benissimo quali sono: Delicious, Flickr, sistemi in generale per creare comunità. E quindi questo è il primo aspetto che comincia a dire: vabbè, ok, ma allora incomincia a mettere in crisi questo discorso, perché riguarda chiaramente un'operazione di marketing. Il secondo aspetto essenziale deriva dalle statistiche di utilizzo dei servizi, ovvero tutti quanti i servizi sono divisi fondamentalmente in due: chi crea contenuti e chi li in qualche modo li utilizza. Ovvero, su Flickr io posso pubblicare le immagini, dopodiché ho una grossa community che è capace di inserire categorie, di dare dei giudizi, di dare dei commenti e di creare delle scale gerarchiche di qualità delle immagini. Idem per i link di Jellicious, idem per altri servizi. Bene, le statistiche delle persone che inseriscono contenuti è veramente irrisorio rispetto alle persone che realmente utilizzano questi servizi. Ma ruotiamo a un massimo del 5% a un minimo che può arrivare veramente tipo allo 0.2%. Quindi, dove sta questa rara necessità di creare una community? Se poi questa community non è una reality community come potrebbe essere, non lo so, un qualcosa che viene istituito qui al Folletti in cui, non lo so, c'è una serata a tema. Ma è un qualcosa in cui le persone che producono dei contenuti è molto meno di un quarto della maggioranza. Sì, cioè si verifica questa strana cosa per cui chi crea contenuti in realtà è una minoranza. Quelli che poi usufruiscono dei contenuti sono la stragrande maggioranza, però la gente che li uploada, che li mette su, in realtà sono pochissimi. E dall'altra parte quello che invece si ottiene è un brulicare di blog, cioè ciò che non è servizi, ciò che non è fotografia, video, quello che è, si trasforma in blog, dove ci sono, dove c'è esattamente il problema inverso, ovvero c'è una quantità di persone che pubblica informazioni che però viene letta praticamente da nessuno. Quindi la critica che si vuole fare al Web 2.0 è il fatto che non è coerente con se stesso, nel senso che non è un qualcosa di livellato, dove c'è un contenuto complesso da gestire, un'immagine, un video, un qualcosa che deriva da una forma, tra virgolette, fra mille virgolette, di arte, c'è una percentuale microscopica di publisher. Ciò che viene particolarmente semplice, scrivere un qualcosa su un blog, ha una percentuale irrisoria di reader, di persone che poi realmente vanno a usufruire tutto ciò. E lo possiamo vedere anche nel nostro piccolo, ovvero gli utenti di No Blogs sono molto... quelli che scrivono sono molto maggiori di quelli che vanno a leggere. Quindi, come sono le statistiche in Noblogs? Le statistiche in Noblogs purtroppo non c'è nessuno ufficiale di utilizzo, né io che però non mi ricordo. Quest'anno qua di questa nuova... No, sono abbastanza... sono positive perché vabbè, il servizio è appena nato, quindi come tale è interessante vedere la grossa affluenza... al servizio, vedere che è un servizio particolarmente ben accetto dalle persone che incominciano a scrivere, che si creano proprio spazio. Cancellate la parola purtroppo, questa è una deformazione professionale. Autistici non fa statistiche e quindi come tale non è possibile sapere esattamente chi legge cosa e con che, qual è la percentuale di lettori rispetto al... Questa è una grossa cazzata secondo me, il fatto che non si tenga... Ma infatti noi non siamo autistici ma siamo... Cioè, benissimo. Come fai a fare il tuo marketing? Cioè capire... Autistici non deve fare marketing. Autistici non deve fare marketing. Autistici non deve fare marketing. Se lui, quello che fa autistici volendo è più simile alla gestione... del vecchio emporio con la gestrice quella che gestisce, purtroppo lei se n'è andata, quindi metti una parola a casa. Tu parlavi dicendo quello che avevi bisogno, lei ci pensava a ordinatelo, mentre in un sistema più marketizzato piuttosto che più analitico la clientela fa le lamentele, di conseguenza il supermercato salta le lamentele. Se tu vuoi mettere in piedi una macchina automatizzata è giusto che faccia le statistiche, perché le statistiche rientrano in un circolo di autogestione e di miglioramento. Ma se tu fai una cosa che deve essere più in piccolo, più personale, va benissimo che l'utente dica: ho bisogno dell'interfaccia di questo tipo, me la fai? E dice: guarda, te la faccio in 2 mesi brutta oppure in 4 mesi bella. Anche perché, vabbè, autistici parte da un punto di vista totalmente differente, cioè nel senso che non è autoconclusivo. Non è che tu ti crei il tuo spazio, dopodiché attraverso lo stesso spazio mi comunichi delle informazioni. Oppure attraverso strumenti informatici tipo invio email. Ma ho la possibilità di incontrarti vis-à-vis, vederti e tu mi dici: guarda, non pensi che questa cosa venga migliorata, perché comunque c'è un investimento anche sulla relazione personale, bla bla bla. Poi purtroppo non ce ne sono autistici, quindi diventa un po'... Ma tu non sei di autistici, scusa. Sì, però dipende, oggi no. Oggi sei di Ippolita. Oggi sono di Ippolita, il cappellino. Okay. E quindi insomma, cioè diventa un po' complesso. A me hanno raccontato gestione. Quelli di autistici mi hanno raccontato che vogliono fare un motore di ricerca interno ai blog, sì. Che potrebbe essere una cosa anche abbastanza simpatica tutto sommato. C'è già, però è una cosa un po'... Sì, è in fase di un po' di sperimentazione, nel senso che loro l'hanno chiamato No Blogs apposta perché insomma comunque volevano essere un po' in polemica con tutta sta faccenda. E però l'assonanza penso sì No, in che senso? No, blogs. Boh, non lo so, cioè la questione era che in realtà la faccenda dei blog c'era già, cioè il blog è una cosa che esiste in realtà da un sacco di tempo. Il suo boom... C'è stato uno splinter perché faceva società di servizio. I blog sono sui blogs, seguono la stessa logica di qualsiasi altro blog, non è che... Sì, no, infatti, è assolutamente identico. Non è un problema, cioè... Ma no, infatti, cioè ci sta. I suoi pregi. La questione è un po' l'autismo, vabbè, dell'approccio intimista, esatto. Perché poi di fatto è quella roba lì, nel senso, un conto è fare dell'informazione, cioè cercare di sforzarsi di essere una fonte, e un po' è come dire il diario personale, per cui l'esposizione della propria interiorità online. E non sempre questa cosa è interessante, ma non per niente, cioè l'editoria è stata assolutamente travolta dall'editoria, l'informazione tradizionale è stata assolutamente travolta da tutto questo, cioè adesso c'è Nova 24 che è la rivista mensile e non solo mensile del Sole 24 Ore, che ha aperto a questi 100 bloggers italiani per sperimentare queste nuove forme di ricerca, come dire, la fonte dell'informazione. Ci sono appunto tutti questi esempi, un po' la Melissa P dell'editoria che va a cercare il diario per cercare di ricomporre l'immagine dell'uomo europeo, della donna europea, dell'adolescente. C'è il New York Times che ha deciso di eliminare il supporto cartaceo e di trasferirsi completamente online, per cui ha fatto una scelta, ci si interroga molto su questo, sul fatto di, come dire, cercare di creare dei poli di autorevolezza nel grande magma, insomma, nel brulicare di tutti questi elementi di informazione. Ci sono accordi economici che vedono Google acquistare YouTube piuttosto che di, come dire, eBay che acquista Skype. eBay che acquista Skype o l'iPod che diventa anche iPhone, che diventa videofonino, telefonino che fa suonare gli MP3. Cioè in realtà, come dire, in mezzo a tanta fuffa dobbiamo cercare un pochino di orientarci, di capire sia dal punto di vista macropolitico quali sono quegli accordi che determineranno dei cambiamenti sociali molto grossi, e quelli che invece sono delle piccole operazioncine che porteranno a poco, che stravolgeranno poco quella che è la nostra vita. Nel frattempo, dotarsi di quei minimi strumenti di autodifesa digitale, di implementazione del proprio alter ego digitale in forma virtuosa. Questa è un po' la faccenda. Poi come dire, poi c'è tutta l'esperienza di vita vissuta degli ACLAB in giro per l'Italia, per l'Europa, delle riviste che pubblicano, come dire, articoli interessanti su quelle che potranno essere le innovazioni o che non saranno delle innovazioni, ma che sono semplicemente delle critiche, dei commenti rispetto alla realtà, e un fatto poi concreto e reale come quello di incontrarsi e di dire: abbiamo scritto un libro, lo raccontiamo e ci scambiamo della conoscenza rispetto a questo. A settembre ci sarà l'Hack Meeting, sicuramente questo è un impegno importante che fortunatamente continua a esserci, una delle poche cose su cui possiamo contare per andare un po' a capire cosa bolle in pentola rispetto a quelli che sono gli sviluppatori e quelli che si dedicano in particolar modo, come dire, all'innovazione rispetto a questi temi, per cui sicuramente vi invito a partecipare. Sarà a settembre a Pisa, non so i giorni, nemmeno noi. Non lo sapete nemmeno voi, però c'è un sito internet su cui si può andare a trovare delle informazioni, hackmeeting.org. ecco. Per cui, oltre che ippolita.net per scaricarvi il libro o per comprarlo stasera qui da noi, sicuramente l'appuntamento dell'Hack Meeting è un appuntamento importante. C'è stato un Transhack Meeting a Oslo In questi giorni. In questi giorni. Finito, sì. E Otted, che è una di poi, si è andata a presentare il libro anche lì. Comunque c'erano parecchi italiani che partecipavano, come ci sono sempre, perché la scena italiana, quantomeno quella dell'underground, è sempre stata particolarmente vivace, per cui si muove in giro. Intercettiamoli, cerchiamo di farci un po' delle chiacchierate. Non ci sono più gli Hack Club, hanno fatto il loro corso, come in parte l'hanno fatto i centri sociali o altre realtà che abbiamo conosciuto, però senz'altro, come dire, ci sono dei soggetti che hanno delle robe un po' da dire su questo. Oltre che, come dire, non so, tipo il Sole 24 Ore, compratevelo, nel senso, questa rivistina Nuova 24 è assolutamente da vedere, cioè è un prodotto. La 924 cos'è? È un bimestrale. Tipo, allora, no, dunque, esce ogni giovedì con il l'inserto. Sole 24 Ore, che è l'inserto, mentre la rivista, che è 924 Review, esce, è bimestrale ed esce ogni due mesi, come tutti i bimestrali, non si è esattamente in mente, però l'ultimo è uscito ad aprile. Sì, comunque c'è in edicola, se lo chiedete. Non è malvagio, cioè è comunque ed un... È il terzo numero. Di piuttosto interessante, devo dire. C'è il Sole 24 Ore in Italia, insieme alla stampa sul lato tech, la stampa.it, sono strumenti di informazione del tutto discreti, assolutamente credibili e interessanti. Ottimo. Quali altre domande e dubbi vi sono rimasti? O meglio, quali altre domande e dubbi riuscite a concretizzare? Criptazione, anonymizer, peer-to-peer, non so, potremmo andare avanti ancora ore. Per me possiamo anche chiudere qua, non so se... Direi che ci siamo. È un sì. Direi che ci siamo. Arigato. Alla domanda, quella che ho sentito così mentre c'era l'applauso, è 10 euro. Il libro, ho sentito uno che chiedeva quanto costa. Non è vero, costa 7 euro, vi facciamo lo sconto. Se lo guarda a metro 10. Vabbè, dai, cioè. giusto per pezzi, giusto. Ci facciamo offrire un'altra birra. Senza di te, guarda. Senza di lei che fa tutto. Infatti ha fatto inizio alla fine. Anche mi ha messo sul testo. La mediazione soprattutto. Ciao.